Ci siamo inventati un piano di fuga per fotter le stelle giorni a lei. Ci siamo giocati l'estate, l'inverno, sui muri i nostri discorsi incompiuti. Tra silenzi ricordi di quel parcheggio, quelle stelle sono affogate tutte. Per combattere l'acne con mili e miele pretendo il bisogno che ho di me. Ma la verità è che tutto nasce e muore nell'ipocrisia del nostro non amore. Allegherò guardandoti negli occhi ciò che galleggiano. Sempre sai respirare. Siamo inventati un piano di fuga per fotter le stelle giorni a lei. Ci siamo giocati d'estate, d'inverno, sui muri i nostri discorsi incompiuti. Tra silenzi ricordi di quel parcheggio, quelle stelle sono affogate tutte. Per combattere l'acne con bili e miele pretendo il bisogno che ho di te. Ma la verità è che tutto nasce e muore nell'ipocrisia del nostro non amore. Annegherò guardandoti negli occhi ciò che galleggiano sempre sa.